Letture di Radio 24. Musica dalla spiaggia del paradiso è il titolo del nuovo romanzo di Jon Ivide Lindqvist, l'autore di Lasciami entrare, romanzo dal quale erano stati tratti due film. La storia si svolge d'estate in un campeggio nei pressi di Stoccolma, dove una mattina gli ospiti scoprono che durante la notte tutto è scomparso. Intorno a loro ci sono soltanto un prato e un cielo grigio. Mamma, mi scappa la pipì! Allora vai in bagno. Ma non c'è! Certo che c'è! E dove sei andata ieri, i bagni comuni? Non ci sono più! Vuoi lasciar dormire la mamma per una volta? Ma mi scappa la pipì, altrimenti me la faccio addosso! Allora vai in bagno, sono 50 metri! Dovresti farcela anche da sola, no? Ma non c'è più! Ma certo che sì! Esci dalla porta, gira a sinistra verso quella roulotte orrenda, vai avanti ancora un po' e sei arrivata! Qual è la sinistra? Al diavolo, falla sull'erba. Basta che mi lasci dormire. Sveglia il papà se vuoi fare i capricci. È scomparso quasi tutto. Cosa vuoi dire? Guarda! Dove dovrei guardare? Fuori dalla finestra. Ho paura, è scomparso quasi tutto. Isabella Sundberg si solleva sui gomiti. Sua figlia Molly, 6 anni, è in ginocchio ai suoi piedi. Isabella la spinge da parte e tira la tenda. Fa per puntare l'indice, ma la mano cade giù. Un fondale. Come quello che Topolino ha dietro la roulotte nel cartone animato che trasmettono sempre alla vigilia di Natale. Qualcosa di finto. Quello è il suo primo pensiero. I dettagli però sono troppo precisi. Le 3 dimensioni percepibili. Non è affatto un fondale. La pipì, mi scappa la pipì. La voce della figlia gratta i timpani. Isabel si stroppiccia gli occhi. Con quel gesto vorrebbe eliminare quella sensazione incomprensibile. Invece resiste, così come la voce monotona della figlia. Si butta verso l'altra parte del letto e dà una ginocchiata alla schiena del marito. Poi scosta l'altra tenda. Batte le palpebre, scuote la testa. Non serve a niente. Serra le labbra e si dà uno schiaffo. La figlia ha smesso di lagnarsi. La guancia brucia, ma non è cambiato niente. Anzi, è cambiato tutto. Afferra la spalla del marito e la scuote con forza. «Peter, dannazione, svegliati! È successo qualcosa!» E quelle che avete ascoltato erano alcune pagine dal romanzo di Jon Ivide Lindqvist, Musica dalla spiaggia del paradiso. Marsiglio, 428 pagine, 18,50 €. Chiedimi se sono felice, il mondo dalla prospettiva del cane. Che cos'è, Angelo? Dice la parola stessa. È il mondo dalla prospettiva del cane. Ci dobbiamo chiedere se il nostro cane è felice. Come facciamo? Dobbiamo conoscerlo. Quindi parleremo di alimentazione, della dieta barf, di psicologia, di telepatia con gli animali. Un sacco di argomenti. Fantastico. Tutti i sabati alle 15 e tutte le domeniche alle 10 del mattino. Vi aspettiamo, Rosita Celentano e Angelo Vaira su Radio 24. Letture di Radio 24. Due che conosco mi hanno chiesto di andare in Piemonte e mi hanno spiegato che bisognava attaccare la polizia. Ho detto di sì, anche se della TAV io non so niente. Le dichiarazioni di una Black Bloc rivelano il vuoto ideologico che si cela dietro a parte del movimento No TAV. Mara C è una ragazza di 19 anni. Non avevo capito bene cosa dovevo fare, altrimenti mi sarei organizzata meglio. Spiega. Domenica si è persa 2 attacchi alle reti del cantiere TAV di Chiomonte. I suoi amici Black Bloc le hanno detto di guardare, che poi sarebbe toccato anche a lei. E così è stato. Mara si è presa il gas di un lacrimogeno in piena faccia, ma non le è nemmeno passato per la testa di arrendersi. Voglio ancora andare giù a lanciare le pietre. Infatti, di lì a poco lo rifà. Io sono di Palermo. Racconta Mara. Mia madre è morta e io con mio padre non vado d'accordo. Me ne sono andata. Qualche soldo in tasca, il primo treno che passa e l'arrivo circa un anno fa a Roma. Per fare cosa? Non lo so. Dove vivi? In giro. Varca la soglia di un centro sociale della capitale. Sembra l'approdo più naturale e Mara ne è felice. Ho conosciuto gente, amici, si discute di tutto. Se vuoi dormire lì, non ci sono problemi. Si vive alla giornata. Sabato, 2 che conosco mi hanno chiesto se mi andava di venire qui in Piemonte. Dice Mara. Ho detto di sì, anche se non ho capito bene a fare cosa. Della TAV io non so niente. Siamo partiti in pullman e mi hanno spiegato che bisognava attaccare la polizia, che dovevo lanciare le pietre, ma non i petardi perché non sono capace. La prossima volta lo farò anch'io. Per Mara i centri sociali sono la compagnia e i black bloc... Non so cosa voglia dire. Ammette, gli amici che non tradiscono mai. Mi hanno detto che è giusto fare così, per aiutare chi vive qui. Con il cantiere distruggono quello che c'è. Sì. Continua Mara. Me l'hanno chiesto in tanti se sono anarchica o dell'autonomia. Per il momento non saprei. Non so bene cosa significhi esserlo. Io sono per conto mio. Seguo i miei amici. Per Mara la Val di Susa non è la prima esperienza. Sono stata anche all'Expo a Milano, ma non mi hanno fatto fare nulla perché era la prima volta. Poi quasi si scusa per l'interruzione. Adesso vado a lanciare le pietre. L'attacco dura pochi minuti. Mara si confonde nel gruppo e sparisce nella nebbia di lacrimogeni e fumo di petardi. La si riconosce da lontano solo per quei jeans chiari sotto il kiwi nero. È una sagoma esile che si muove con impaccio, avanza e arretra indecisa. Sembra disorientata. Un compagno la afferra per un braccio e dopo l'assalto, quando la polizia attraversa il ponte dell'Havana, la trascina via. Torna dietro le siepi. Noi andiamo a tirare le pietre dove ci chiamano. Andiamo ad aiutare la gente. Loro ci stanno vicini, ci dicono dove passare per non farci prendere. Ci danno il Malox per combattere gli effetti del gas. Avete ascoltato alcuni passaggi dell'articolo di Marco Bardesono, Mara, la Black Bloc con le pietre, della TAV Io non so niente, dal Corriere della Sera del 30 giugno. Lanciare pietre contro la polizia senza nemmeno sapere il motivo della protesta può sembrare assurdo, ma non agli organizzatori del premio Lo Straniero, che hanno definito i NOTAV rappresentanti del movimento di disobbedienza civile forse più avanzato. Domenica pomeriggio a Castiglioncello, nota località balneare in provincia di Livorno, si è tenuto il premio Lo Straniero, che prende il nome dall'omonima rivista di arte, cultura, scienza e società diretta da Goffredo Fofi e che viene conferito dal 1992. Ciò che ha sorpreso i presenti, tra i quali moltissimi turisti, è però il conferimento del premio al movimento NOTAV con la seguente motivazione. Premiando i rappresentanti del movimento di disobbedienza civile forse più avanzato e certamente più radicale nell'Italia recente, mai così supina e conformista nei confronti dei vecchi e nuovi poteri, i collaboratori di Lo Straniero esprimono la loro speranza di un contagio da questa esperienza a 100.000 altre. Non sono ottimisti sul futuro, ma che attorno alla farsa e alla violenza politica ed economica che si è espressa nell'idolatria dell'alta velocità si sia creato un movimento di resistenza e proposta come quello dei militanti della Valle di Susa è per noi un serio motivo di conforto e di orgoglio, spiega gli organizzatori del premio. Insomma, una motivazione che incita la resistenza contro le opere pubbliche statali e alla militanza contro chi deve garantire la legalità. Il premio è stato conferito da Fofi e dai suoi giornalisti ed è meramente onorifico, consiste in alcuni libri, ma è stato ospitato all'interno del festival In Equilibrio, che da anni si tiene a Castiglioncello su organizzazione di Armonia, partecipata del comune di Rosignano, che ha una giunta PD e che ha patrocinato la manifestazione, e che ha il finanziamento del Ministero per i beni e le attività culturali e quello della Regione Toscana, che solo nel 2015 ha conferito soldi pubblici ad Armonia per un importo che, secondo quanto risulta da delibere regionali, è pari a 142.000 euro. Avete ascoltato la lettura di alcuni passaggi dell'articolo di Chiara Giannini, L'ultima del PD, un premio per i NOTAV, da Libero del 30 giugno. Fateli piangere, fateli ridere, ma soprattutto teneteli sulla corda. Era questo il motto dello scrittore inglese Wilkie Collins, amico e collaboratore di Charles Dickens. Caratteristiche che si possono tutte ritrovare nel suo romanzo Senza nome, pubblicato nel 1862, due anni dopo il grande successo ottenuto da La donna in bianco. Uno sfrenato melò, come lo definisce il curatore della nuova edizione pubblicata da Fazzi, che però riesce a tenere il lettore col fiato sospeso, e, come nei romanzi di Dickens, unisce sentimenti, comicità e critica sociale. Il romanzo rappresenta per Collins l'occasione per denunciare le ingiustizie che devono subire i figli che, non potendo provare la propria legittimità, alla morte dei genitori si vedono privati di ogni bene materiale. È quanto accade alle protagoniste del libro, le due sorelle Magdalene e Nora Vanstone, che perdono entrambi i genitori nel giro di pochi giorni, quando la loro governante, Miss Garth, si reca dall'avvocato Pendrill per conoscere i dettagli del testamento, scopre che le due ragazze erano nate prima che i loro genitori si sposassero. Secondo la legge inglese dell'epoca, in queste circostanze era impossibile per le figlie essere riconosciute come tali. «Non ci sono altri parenti», dice l'avvocato, che poi prosegue. «È una sventura di cui ci possiamo ragionevolmente lamentare il fatto che non sopravvivano altri zii o zie. Ci sono cugini ancora in vita». Un figlio e due figlie della sorella maggiore di Mr. Vanstone, che sposarono l'arcidiacono Bartram, che morì, come le ho detto, alcuni anni fa. Ma il loro interesse è superato da quello della linea di sangue più prossima. No, Miss Garth, dobbiamo guardare risolutamente in faccia i fatti per quel che sono. Le figlie di Mr. Vanstone sono figlie di nessuno, e la legge le lascia indifese alla pietà del loro zio. Una legge crudele, Mr. Pendrill, una legge crudele per un paese cristiano. Per quanto possa essere crudele, Miss Garth trova la sua giustificazione in questo caso in una peculiarità spaventosa. Sono ben lontano dal difendere la legge inglese sulla posterità illegittima. Al contrario, penso che sia una vergogna per la nazione. Punisce i figli per i peccati dei genitori, incoraggia il vizio togliendo ai padri e alle madri dei motivi più forti per compiere la riparazione nel matrimonio e ha solo il risultato di produrre questi abominevoli risultati in nome della morale e della religione. Ma per quello che riguarda queste sfortunate ragazze, non sono vittime di nessuna oppressione straordinaria. Le leggi più pietose e cristiane di altri paesi che permettono che il matrimonio dei genitori legittimi i figli non hanno comunque pietà di questi figli. Il fatto che il loro padre fosse sposato quando ha stretto la relazione con la loro madre le ha messe al bando dall'intera società, al bando dalla legislazione civile in tutta Europa. Le dico la dura verità. È inutile travestirla. Non c'è nessuna speranza se guardiamo al passato. Ci può essere solo se guardiamo al futuro. Il migliore servizio che ora vi posso rendere è quello di abbreviare il più possibile il periodo di attesa. In meno di un'ora mi metterò in viaggio per tornare a Londra. Immediatamente al mio arrivo utilizzerò i mezzi più veloci per comunicare con Mr. Michael Vanstone e le farò sapere il risultato. Anche se la posizione delle ragazze è triste, dobbiamo guardare a essa senza perdere l'ottimismo. Non dobbiamo perdere la speranza. Speranza, ripeté Miss Garth. Speranza da parte di Michael Vanstone. Sì, speranza nell'influenza su di lui del tempo, se non addirittura della pietà. Come le ho già detto, ora è un vecchio. Non può, secondo il corso naturale delle cose, sperare di vivere molto a lungo. Se guarda indietro al periodo della discordia tra lui e suo fratello, dovrà andare indietro di 30 anni. Ci sono forse delle influenze che addolciscono gli uomini che possono commuovere più di queste? Certamente, se non altro, la conoscenza delle terribili circostanze in cui è entrato in possesso del denaro non lo lascerà insensibile. Cercherò di pensare come lei, Mr. Pendrill. Cercherò di sperare per il meglio. Dovremo aspettare a lungo prima che ci giunga la decisione. Non credo. L'unico ritardo da parte mia sarà causato dalla necessità di scoprire il luogo di residenza di Michael Vanstone sul continente. Penso di avere i mezzi per risolvere questa difficoltà con successo e nel momento stesso in cui raggiungerò Londra verranno messi in pratica. Prese il cappello e poi ritornò al tavolo su cui l'ultima lettera e l'inutile testamento del padre stavano l'uno accanto all'altro. Dopo un momento di riflessione, li mise entrambi nelle mani di Miss Garth. «Sarà d'aiuto nel fare le tristi rivelazioni alle sorelle orfane», disse nel suo modo tranquillo, controllandosi, «se possono vedere come il loro padre si riferisce a loro nel suo testamento, se possono leggere la sua lettera indirizzata a me, l'ultima che ha scritto. Queste prove diranno loro che l'unica idea della vita del loro padre era quella di regolarizzare la posizione delle figlie. Possono pensare con amarezza alla loro nascita», mi disse al tempo in cui redassi questo inutile testamento, «ma non penseranno mai con amarezza a me. Non le ostacolerò in niente, Non infliggerò mai loro un dolore che posso risparmiargli, né limiterò alcun bisogno che posso soddisfare. Mi fece inserire queste parole nel suo testamento perché perorassero in suo favore quando la verità che aveva nascosto alle figlie nel corso della sua vita sarebbe stata rivelata loro dopo la sua morte. Nessuna legge può privare le figlie dell'eredità del pentimento e dell'amore. Le lascio il testamento e la lettera perché le siano d'aiuto. Li affido entrambi alle sue cure. Egli vide quanto la sua gentilezza nell'addio la colpisse e affrettò saggiamente i saluti. Ella prese la sua mano nelle sue e mormorò poche rotte parole di gratitudine. «Conti pure che farò del mio meglio», rispose, e voltandosi con pietosa partecipazione, la lasciò. Nel pieno, allegro sole, rivelata la fatale verità, se ne andò. E quelle che avete ascoltato erano alcune pagine del romanzo di Wilkie Collins, «Senza nome». Fazzi Editore, 800 pagine, 18,50 €. A ottobre arriverà in Italia Netflix, la TV americana via internet che permette di vedere film, serie televisive, documentari sul televisore, sul PC o sul cellulare. A detta di molti, sarà un anno zero della nostra televisione. Scrive Giacomo Gambassi su Avvenire. Basta antenna o parabola, basta emittenti generaliste o tematiche, basta palinsesti preconfezionati, basta flussi continui di trasmissioni. Con la TV che arriva via web si impara la logica del vedo ciò che voglio a qualsiasi ora e in qualsiasi luogo. In realtà però in Italia vanno già in onda stazioni televisive che vivono solo sulla rete. Le prime a essere lanciate sono state Team Vision e Chili. La TV di Telecom Italia ha 3.000 titoli in catalogo e si è alleata con Sky, che tra l'altro porterà lo sport sui telefonini. L'italiana Chili conta 350.000 abbonati nella penisola e si sta espandendo in Europa. Grandi manovre anche in casa Sky. Oltre a Telecom, il gruppo ha stretto intese con Fastweb per diffondere i suoi due prodotti web. Sky Online, che propone cinema, intrattenimento ed eventi in streaming, e Sky On Demand, utilizzato da 1,3 milioni di abbonati satellitari. Anche Mediaset è a caccia di accordi con le compagnie telefoniche per ampliare la platea di Premium, On Demand e di Infinity, che è nato da un anno e mezzo e mette a disposizione 5.000 titoli. Rivale di Netflix è anche Amazon Prime, la piattaforma di video streaming con 40 milioni di abbonati, che è pronta a sbarcare in Europa e ha in cantiere 12 produzioni originali fra film e documentari. E quello che avete ascoltato era l'articolo di Giacomo Gambassi, «La Web TV è già tra noi», da Avvenire del 2 luglio.